rincorrendo la felicità. Sulle onde remiamo, verso il largo fuggiamo, rincorrendo la felicità. Lentamente il vento ci trascina, dove l'acqua cambia il suo colore, sotto il cielo bruciato, sulla barca distesi, siamo soli nell'infinità. Sotto il cielo bruciato, sulla barca distesi, siamo soli nell'infinità. Sedine dal cielo, nell'azzurro chiudo gli occhi miei. T'amo come non t'ho amato mai. Mentre il sole batte sul pontile, dondola la barca in mezzo al mare. Sotto il cielo bruciato, sulla barca distesi, siamo soli nell'infinità. Sotto il cielo bruciato, sulla barca distesi, siamo soli nell'infinità. Sotto il cielo.